Radio 24 Reportage. L'Aquila, il silenzio della città ferita, di Raffaella Calandra. Io sto aspettando di tornare a casa mia, quindi lo Stato perché mi sta pagando l'albergo? Spende tutti questi soldi per fare che? Ci avrebbe aggiustato non solo casa mia, ma tutto il quartiere. Sprofondata sul divano, la signora Rosa fissa con sguardo perso la TV. Da 2 anni la hall di questo albergo è diventata il suo salotto e gli impegni di una casa da gestire sono stati sostituiti dal vuoto di giornate lunghissime, il vuoto come quello del centro storico dell'Aquila. La signora Rosa è una delle 1077 persone, per lo più singolo o anziani, come le due sedute accanto a lei, ospitate ancora negli hotel. Mentre 23.000 sono in affitto o nelle caserme e altrettante traslocate in quelle che qui tutti chiamano le casette di Berlusconi. Sono queste le cifre di un'emergenza che, se è finita per decreto, rimbomba ancora forte nel silenzio del decumano senza vita o dei vialetti senza storia delle New Town. Il silenzio della morte di 309 persone, ma anche il silenzio della solitudine dei tantissimi senza casa che non sanno neanche quando poter ricominciare a ristrutturare. Non ho una casa mia, sto in affitto a un ente, non stanno a fare nulla. Dimmi tu come mi devo sentire. Non può fare neanche un conto alla rovescia, diciamo. Si vede nulla. 2 anni in albergo. Una famiglia? Non ce l'ho più la famiglia. Perché i miei figli non li vedo mai. Ci stanno annullando fisicamente e psicologicamente. Più che altro psicologicamente. Ho chiesto dove vai, se no? I figli ormai loro c'hanno, uno sta nella casetta di Berlusconi, l'altro si è preso un appartamentino, ma io che vado a farla? Qui pure esco, oggi sono stata a teatro, vado a messa. È più vicina al luogo dove abitava? Io per esempio ho la casa qua vicino, però non ci si può andare. Al mattino mi alzo, sarà una giornata, sì, ci abbiamo per fortuna la villa vicino, che insomma non è poco, perché vai lì, ti incontri, essere in un posto in periferia adattabile lo stesso. L'Aquila oggi è tutta una periferia di una città che non ha più centro. Sant'Elia 1 e 2, Bazzano e poi dall'altra parte le case di Preturo, Camarda, Assergi, il progetto case o i cosiddetti MAP, moduli abitativi provvisori. Per trovare gli aquilani bisogna percorrere alcuni chilometri dalle strade antiche, ancora in gran parte sbarrate e tutte puntellate. Vivono qui quelli che hanno una casa E, ossia molto danneggiata, in queste palazzine dormitorio, col prato tagliato e le giostre per i bambini, ma nessun punto di riferimento per gli abitanti. Per trovare un negozio, una farmacia o un bar, tutti devono prendere sempre una macchina e le chiacchiere si fanno ai giardinetti quando si porta a spasso il cane e alla fine si parla sempre di terremoto. L'appartamento è caduto e non si può andare. Che è in centro, a 200 metri da Piazza Duomo, Piazza Santa Maria di Royol. È una bella differenza vivere nel centro storico. E ci eravamo abituati, c'erano 30 anni che stavamo là. Purtroppo il terremoto è successo quello che è successo. Io praticamente la mattina mi faccio un giro qua attorno, il pomeriggio dopo mangiato lo stesso. Però è sempre la stessa. Non ci sta un cambiamento, insomma. Zona rossa, al centro storico, non si sa ancora che cosa bisogna fare. Non c'è la possibilità, neanche volendo. Noi ci siamo mossi subito per cercare di fare la ricostruzione, ma ci sono posti molti vincoli, molte difficoltà. E abbiamo presentato la domanda a maggio 2010. E a tutt'oggi ancora non ci abbiamo una risposta definitiva. Quando siamo in una zona limitrofa al centro, prima uscivamo a piedi e andavamo al centro, ma non c'è più il centro. Cioè saremo comunque una periferia, come siamo qua, una periferia dove non c'è nulla, ci sono solo queste case. Qua si sta bene assolutamente, non è che uno non può, però stai fuori dal mondo. Serve l'auto per qualsiasi cosa. Assolutamente. Noi bene o male lavoriamo, per cui la mattina si esce e si rientra la sera, ma per chi ci deve vivere, per gli anziani, per i ragazzi è un problema. Sono un po' prigionieri qui di un quartiere che è distante. Beh, ma da che cosa? Distante da cosa? Ormai non c'è più niente. L'unica aggregazione che sono il centro commerciale. Uno quando è venuto qua ha pensato alla provvisorietà, però momentanea. Se almeno noi sapessimo, a 5 anni, diceva beh, almeno uno si tranquillizza, dice per 5 anni stiamo qua. Invece questo proprio questa precarietà continua, perché non sai se so 5, se so 6, se so 4, può essere pure che so di meno, però di fatto non lo sappiamo. Quindi questo è che ci rende proprio un po' adesso più stressati di prima. Adesso mi sento un po' presa in giro. Arrivando all'Aquila ci si aspetterebbe di vedere gru spuntare ovunque, ma i cantieri aperti in realtà sono pochi e addirittura alcune imprese edili stanno mettendo in cassa integrazione gli operai, ed è per questo che sulla popolazione si legge un senso di sconforto. In questi 2 anni 9.000 persone, recitano i calcoli del comune, stanno rientrando nelle abitazioni, quelle poco danneggiate, mentre solo ora per i primi 150 edifici del centro storico sarà possibile presentare un progetto, ma finché le finestre ora sbarrate torneranno ad essere riaperte passeranno altri anni. Ricostruiamo l'Aquila, recita uno striscione in piazza Duomo, ma l'unico suono che si percepisce qui è quello dell'acqua che sgorga dalla fontana in mezzo a decine di insegne spente. C'erano negozi, artigiani che alimentavano la linfa economica di una città e di una regione dove ora la disoccupazione è passata dal 7% all'11%. Come un faro per i naviganti, i pochissimi locali riaperti, una decina su oltre 100, richiamano con la musica chi torna a passeggiare lungo l'unica strada percorribile della zona rossa. Voi siete rientrati nella vostra casa? Sì, da qualche giorno. In un'altra casa? Sì, prima sulla costa, poi abbiamo preso in affitto un appartamentino ad Avezzano. Quindi era parecchio tempo che io non facevo questa passeggiatina per il centro, cioè sono venuta saltuariamente. E il senso d'angoscia mi prende tuttora, non è a dire, perché la città come stava 2 anni fa è più, a parte la messa in sicurezza. Però devo dire che comunque la città è comunque stupenda, nonostante questa distruzione. Si torna a casa e quindi per me io mi considero fortunata. La chiesa delle anime sante ha la cupola avvolta dalle impalcature. Tubi innocenti e ferro cingono le colonne dei portici. Transenne chiudono le strade laterali su cui a sera piomba pure il buio. E se senti il rumore di un motore è la camionetta dell'esercito al cambio del turno. Se tutti qui riconoscono che l'emergenza è stata gestita bene, ora rivendicano il cuore della loro città, la vita che torna a battere, ma per incontrare i giovani in realtà bisogna allungarsi fino al centro commerciale. Dove stanno riaprendo dei locali trovi ragazzi. Di giorno, diciamo, all'università oppure nei centri commerciali. Vi ritrovate, vi date appuntamento nei centri commerciali? Sì, diciamo che la maggior parte delle persone sì. Sta riaprendo qualche bar, cioè riaprendo qualcosa qui nel centro? Sono veramente pochi, tipo uno ogni mese. Diciamo che qui io direi veramente la precarietà è all'ordine del giorno e si respira veramente ogni giorno. Quando mancano tutti i punti di riferimento, anche chi ha avuto la fortuna di poter rientrare subito nella propria casa si trova comunque sperso e smarrito. Intorno agli studenti ruota un'altra fetta dell'economia aquilana, dove gli iscritti all'università sono passati però da 27 a 20.000. Gli studenti che conoscevo io, anche con sistemazioni complicate, non vivendo all'Aquila quindi in casa, però prendendo case nei paesi più o meno vicini, hanno continuato a frequentare qui. So che però c'è una parte che è abbandonato per vari motivi, non so, però non tutti quanti sono riusciti a trovare una casa qui, una sistemazione qui, per tanti motivi. E questa è la grave complicazione per gli studenti qui, le strutture. Adesso non c'è una struttura per accogliere gli studenti, come era la casa dello studente, ad esempio? Io da qualche mese a questa parte sono riuscito a ritornare, per 1 anno e mezzo sono dovuto stare lontano. Ultimamente sembra che si sta muovendo qualcosa, però c'è ancora tanto da fare. Perché si rischia di perdere un grosso patrimonio qua. Certo, l'università è importante. Qua. È fondamentale. Alle sue spalle ci sono le pietre sotto sequestro della casa dello studente, tomba per 8 giovani. Questa è una delle più complesse indagini aperte dalla Procura dell'Aquila, che ha indagato 11 persone. Dopo il 6 aprile 2009, l'Aquila è diventata come un unico corpo di reato, un crollo, un fascicolo. 220 ne ha aperti la Procura, che in alcuni casi contesta anche l'utilizzo di materiali scadenti nelle costruzioni. Abbiamo lavorato col fiato sul collo della città che reclamava giustamente risposte, commenta il procuratore Alfredo Rossini. Abbiamo esaminato tutte le perizie che abbiamo fatto, le visite del materiale, abbiamo controllato tutto il materiale, quindi colposi, diciamo, sono a volte atti su lavorazioni mal fatte, altre volte invece sono state delle attività dolorose, nel senso di aver usato del materiale appunto per lucrare su questo. Tutti quanti stanno in fila, sono tutti quanti completati da parte della procura. Procuratore, di questi 200 fascicoli, 220, lei ricorda per quanti ci sono state delle archiviazioni? Più o meno saranno, che ne so, 10%, 15% per questi qui, e gli altri un po' di meno. Due anni dopo il terremoto, anche dalla giustizia la città aspetta un segno per andare avanti e rompere il silenzio delle sue strade con i suoni della vita che ricomincia. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.